carte di Stefano. In questo modo i nostri piedi sono alla stessa altezza delle spalle. Le ginocchia sono lievemente piegate per scaricare il bacino. Le braccia sono lungo i fianchi, lasciate cadere. Facciamo qualche respiro. Cerchiamo di mantenere la compattezza e non farci distrarre. Facciamo qualche semplice esercizio di respirazione per ammorbidire il diaframma e per ampliare un po' il nostro respiro. E lo facciamo in questo modo. Inspiro e sollevo le braccia. Espiro e scendo. Lentamente. Le braccia arrivano fino all'altezza del torace. Inspiro e quando sono all'altezza del torace, espiro. Inspiro. Il movimento è come se fossimo immersi nell'acqua. Espiro. Possiamo farlo ad occhi chiusi, in modo da non copiare il ritmo del nostro vicino. Seguiamo il respiro. Lasciamo cadere le braccia nei fianchi. Le mani sono sulle spalle. Inspiro e apro bene. Espiro e chiudo. Svuotando bene i polmoni. Inspiro e apro bene. Espiro, chiudo e cerco di buttare fuori tutta l'aria. Di nuovo inspiro ed espiro. Quando inspiro apro. Inspiro, apro. Tutta l'aria possibile immaginare. Ed espiro. Braccia lungo i fianchi, lentamente. Ultimo esercizio. Mani giunte di fronte al bacino, in questo modo. Apro ed inspiro. E poi espiro chiudendo. E riporto le mani allo stesso punto. Poi. Il contrario. Inspiro, aprendo verso l'altro e chiudo espirando. Di nuovo inspiro dal basso ed espiro verso l'alto. Ultimo, verso l'alto. E chiudo espirando. Abbandono le braccia lungo il corpo. Ginocchia lievemente piegate. Occhi chiusi. Ascolto il corpo. Rimango in contatto con il mio corpo e con il mio respiro. Mi accorgerò che il mio corpo non è completamente fermo. Se porto l'attenzione alle piante dei piedi, avvertirò che il mio corpo ha delle piccole, costanti oscillazione. Oscilla in avanti, all'indietro, a destra, a sinistra. fermo, tutto è in costante movimento. Ora, mantenendo questa compattezza, cercando di non perdere consapevolezza, ci mettiamo seduti nella nostra posizione di meditazione. Cerchiamo di rimanere in pace, in subito il nostro respiro e di ascoltare il corpo che abbiamo un po' mosso e l'abbiamo fatto respirare. Come sentiamo il nostro corpo? Com'è il nostro respiro? Consueta di meditazione e dopo aver preso contatto con il corpo e con il respiro, ognuno di noi si immerga nella pratica e rimaniamo così in silenzio durante tutta la pratica fino a quando non vi chiamo. questa sera chiamiamo un capogruppo, facciamo un feedback su tutto. Il feedback funziona così, facciamo il giro, ognuno dice quello che ha sentito nella pratica per condivisione o non condivisione che potrebbe essere delle difficoltà, così come dei benefici, quello che ha sentito durante la pratica. Così io posso magari dare anche dei consigli. Naturalmente non c'è alcun obbligo, mai, semplicemente se uno sente di voler condividere con lui, anche lui ti dice passo e si passa il collega. Diciamo qui. E la difficoltà nel non riuscire a stare in me, quindi la testa che... Esatto. Certo, ma è naturale, no? Abbiamo detto tante volte che siamo all'inizio e quindi questo fatto della mente che continua a scappare, a formulare pensiero, è proprio un classico degli inizi della pratica meditativa. Noi, sempre con gentilezza e mai sotto sforzo, con costanza ritorniamo al nostro corpo, al nostro sì. Lasciamo pure che la mente vaghi, ma lasciamo anche andare, non è un problema. Ad un certo punto riprendiamo presenza e in quel momento la richiamiamo e stiamo sul corpo. Grazie. Anch'io ovviamente ho la mente che si muove, però non so se dovrebbe essere assenza di pensiero o determinati pensieri, perché cerco di scegliere i pensieri che mi danno pace comunque. Oh, questo è già una buona cosa. Che sia una spiaggia o una sensazione, cerco di... poi rilascio e magari torno su respiro. Poi non so come dovrebbe essere l'evoluzione. Diciamo che noi partiamo intanto dal provare a rimanere radicati sul corpo. Lo facciamo attraverso o la sensazione del corpo o il ritmo del respiro. Questi sono i due veicoli che per adesso privilegiamo. Poi è altrettanto vero che si sorgono dei pensieri di pace, di serenità, posso starci. Basta che questi non comincino a diventare dei grappoli, cioè cominciano a pensare ad altre cose, e cominciano a sorgere dei ricordi, delle proiezioni. Ecco, questo no. Questo cerco di non farlo. Diciamo, sì, la mente riesco a andare in, come si può dire, in armonia, a staccare, solo che ho delle parti fisiche, tipo un leggero sollettico, tipo la gamba, il piede che mi duole un pochino, allora lì mi porta via un po'. Per cui con il respiro, come hai detto tu la prima volta, respiro e poi espiro, lascio andare e riesco ad affrontare e tenere proprio tremando anche, perché io porco campo, morte! Scusa! No, comunque dai, battuta! E in effetti sì. Se no, poi riesco... Non dobbiamo mai forzare, nel senso che anche a casa se sentiamo troppo dolore per i primi tempi possiamo alternare, fare una meditazione seduti sulla sedia e una seduta in questa posizione. Possiamo alternare, fino a quando il corpo non si ammorbidisce abbastanza da rimanere queste 4 ore sedute. Questa sera abbiamo fatto anche una roba un po' più lunga, e alternata, quindi anche il fatto di esserci distesi, poi aver fatto in piedi, poi fatto fermo, seduta, dai piedi fermi, poi seduti, è una forma per mantenere una consapevolezza ampliata nel tempo questa. Però da seduti sì, abbiamo ancora delle difficoltà, piano piano passa. Comunque anche il discorso che ho avuto la schiena l'altra volta, sì. Con la meditazione, va bene, che poi in ospedale mi ha dato. Però poi sono riuscito anche con la meditazione ad aiutarmi, certo. Non prendere i fans, cose un po' naturali, e soprattutto con la meditazione sono riuscito a rilassare un po' la parte. la pace. Allora io, riflettendoci adesso un attimo, mi sembra di aver distinto un po' in due parti. La prima in cui molto serenamente riuscivo, forse anche per l'attività propedeutica prima, riuscivo a richiamare la mente in maniera molto più semplice quando mi distraevo. Invece una seconda parte in cui provavo sempre a mantenere la concentrazione sul respiro, dentro e fuori, però cominciavo pian piano a perdere la concentrazione, mi sembrava come se concentrarmi sul respiro fosse molto noioso e la testa vagasse più sulla schiena che fa male, sui pensieri di qua e là. Quindi non so. Allora, il fatto della noia è estremamente interessante perché è il precursore del torpore, come ostacolo ne abbiamo parlato. È il precursore perché penso che la meditazione sia un'attività noiosa, infatti per certi versi lo è, ma quella noia che è il precursore del torpore, che cosa fa il meditatore? Molla tutto e non serve. Allora, qualsiasi concetto, pensiero, sorga diventa preponderante rispetto al resto del mio abitato mentale o anche fisico, è il mio oggetto di meditazione. Abbiamo detto che la meditazione non è uno svuotare la mente, ma è il mantenere un oggetto o un concetto fisso in modo che la mente sia abitata solo da quello, per un tempo prolungato. In questo caso, se sorge la noia, è la noia il mio oggetto. E quindi osservo la noia. So che non è così immediato, anche come idea, no? Ho cominciato a osservare la noia. Beh, ma posso osservare come la noia agisce sul mio corpo. Ad esempio, come è sorta la noia? Cosa mi sta facendo provare? È un'emozione che tocca una parte del corpo. Potrei sentirmi un po', non si può dire che non mi piace più, che sorge una parte di me giudicante, che dice beh, ma questo non è più una cosa interessante, quindi mi sposto da qualche altra parte del corpo. E questo mente giudicante è la parte che di solito fa provare questa emozione. È interessantissimo quando sorgono queste altre attività mentali. Perché abbiamo detto che la mente è abitata da una serie di fenomeni, questi fenomeni, a mano che sorgono, devono diventare il nostro oggetto. Grazie. Io ho trovato un po' di difficoltà, soprattutto nella parte, quella del silenzio, perché mi è capitato di ascoltare i respiri degli altri. E ascoltando il respiro degli altri, ho cercato di andare al ritmo degli altri, non più del mio, e non riuscendoci, perché il mio è sempre più veloce rispetto a quello degli altri. Quindi a un certo punto ho detto chissà che parli, che quindi quella cosa, perché nella prima parte, finché parlavi, riuscivo effettivamente ad andare al mio ritmo, ad ascoltarmi, e quindi era tutto quanto. Poi nella seconda parte, con il silenzio assoluto qui, invece ho ascoltato tutti i respiri. E io non l'ho più ascoltato. È un'esperienza molto interessante. Come la mente ci porti a distrarre i ritmi interiori semplicemente perché stiamo nei ritmi degli altri. Quindi la distrazione, in questo caso anche il respiro, perché il resto è molto silenzioso. Allora, in quel caso, cosa si fa? La tecnica, il metodo di base è sempre quello. Osserviamo questo distrarci e collegarci con gli spiriti degli altri. Osserviamo, da cosa nasce? Come hai fatto questo non essere in grado di stare col proprio spirito? Piano piano mi accorgerò che non è altro che una forma della mente, questo è un altro ostacolo, che è la repulsione, diciamo così, no? Una parte di repulsione. Per cui io non riesco a stare con me e mi aggancio a qualcosa di fuori, no? E a quello mi attacco, quindi ho visto la repulsione attaccata. E osservo solo i ritmi degli altri e mi faccio distrarre dai rumori che sono esterni a quello che ho detto. Come mi contrappongo? Anche in questo caso con grande gentilezza, magari faccio qualche respiro più profondo, mi collego con il mio corpo e cerco di sentire se ci sono delle sensazioni, magari sensazioni un po' più preponderanti, magari un po' di male a una gamba o un ginocchio che mi dà un po' di fastidio, e lì sto. Vedrai che piano piano tutto quello che c'è fuori scompare un po'. Che ci ho provato, ed effettivamente c'è un senso di oppressione qui, per esempio, l'ho trovato qui, e un battito cardiaco accelerato, per esempio, questo, e il respiro era molto veloce, però... Stai su questo senso, sensazione di pressione, di contrazione, stai, osserva quella, stai collegata con quella. Tutto il resto sparirà. E quando, come dicevamo nella prima seconda lezione, quando abbiamo un dolore, dei denti, un'influenza, qualsiasi roba, il fuori scompare, il dolore ci richiama completamente in contatto con noi stessi, in un modo violento, in un modo non piacevole, ma sicuramente tutto quello che c'è fuori non è più un motivo di distrazione. Sono troppo concentrato con quello che sento dentro. Io stavo pensando che ho sperimentato due sensazioni diverse, forse diametralmente opposte, perché all'inizio ho avuto piacevolezza nel corpo di sentirlo tranquillo, leggero, e tutto sommato anche il respiro, la mente ogni tanto sì, saltellava, ma questo non ci faccio più tanto caso. Nell'ultima parte, adesso non saprei dare un tempo, magari un minuto, l'ultima parte, sperimentato qualcosa di po' agitazione o disagio, è una cosa che non mi era forse mai successa. Bene. E quindi, come prima, se qualcuno ha detto, speriamo che parli, che sia arrivato. Non stiamo tanto sulla motivazione mentale quando sorgono queste cose, perché se no entriamo nel piano del giudizio, l'altra volta del cammello, questa volta. Ma semplicemente ascoltiamo, sono normali modi della mente che poi si riflettono sul corpo. Quindi questa agitazione magari, non so, chiude un po' la gola oppure si rigidisce una parte del corpo. Noi abbandoniamo l'idea dell'agitazione, stiamo con quella parte del corpo e proviamo a rilassarla, a sciogliere la tensione che si è in quel momento manifestata. È una cosa che si autoalimenta. Ecco, ho visto a un certo punto dove io vedo un buio e sto dentro a questo buio molto piacevole, e a un certo punto ho visto invece molto bianco la neve. Allora sono rimasta in quel pensiero che mi dava ancora più serenità. E ecco una questione, la schiena non ho potuto appoggiarla stasera, però sono rimasta bene, sono rimasta dritta e sentivo l'esigenza di stare così. Forse sono anche molto meno stanca stasera perché non ho fatto lavori, però insomma sono stata favorevolmente colpita da questa cosa, che con la schiena sono stata bene. Diciamo che una volta che si è assestata un po' la postura, se riusciamo piano piano a trovarla, ci vuole un po' di tempo, ma poi la schiena non si muove e non c'è alcun peso, non sento alcuna problematica, mi sento anzi rilassato quando sto seduto qui. Ci vuole un po' di pazienza. Non volevo che finisse. Abbiamo fatto il video mezz'ora, quindi è stata una fatica. Io invece ho notato una differenza di respiro, nel senso che sono arrivata di corsa, in ritardo, arrivo da via a Padova per lavoro e tutto, e quindi anche nella prima parte, quando eravamo distesi, non riuscivo a stare ferma, eccetera. Quindi nella prima parte della meditazione avevo un respiro abbastanza veloce e non era vero che l'inspirazione durava un terzo e l'espirazione due terzi, ma il contrario. E poi ho iniziato a fare l'oceano di pace, quindi a fermarmi quando espiravo e lì mi si è calmato tantissimo, cioè proprio rallentato sempre di più, che a un certo punto ho detto muoio perché cioè, respiravo veramente pianissimo e mi ha proprio... L'oceano di pace è formidabile, Veramente. se vi pratichite, insomma, poi ne riparliamo per chi non c'era l'altra volta, ma forse è finito nella Per me la sensazione principale stasera è stata, per me è stato incoraggiante, cioè io mi sentivo in mezzo ad altre persone che meditavano, stavamo meditando insieme e questo per me è stato incoraggiante. Anche per me è stata una grande sensazione. Sì, molto diverso, per me non è durata tanto stasera, anche se non ci vediamo, anche se io non riuscivo neanche a sentire i respiri, cioè molto poco, molto poco. No, questa è la sensazione mia. E stasera non mi ero nemmeno accorto, a differenza delle prime volte in cui per me erano insopportabili le sensazioni fisiche, cioè stare lì 3 minuti mi pareva già, perché non so, forse ho imparato come mettere le gambe, i piedi, non so, come sistemarmi meglio. Le prime volte veramente non, era veramente difficilissimo. Stasera non mi sono nemmeno accorto, insomma, di come ero messo. Quindi... La mente incide tantissimo perché in 2 settimane il corpo non cambia. Diciamo che si adatta un po', sicuramente diventa un po' più elastico, la posizione è abbastanza buona, ma è molto la mente che non riesce a stare ferma e quindi si riflette sul Comunque ho vagato tanto, anche io avevo continuamente pensieri che andavano dappertutto. Vabbè, Io se posso passo. Dico l'unica cosa è che la parte della Shavasana è stato bellissimo. Non sono sicura se mi sono addormentata o meno, ma sentivo la tua voce, quindi ma sono stata proprio bellissimo. io ho avuto delle difficoltà nella meditazione in piedi, all'inizio ma soprattutto alla fine, nel mantenere l'equilibrio. Tanto che a un certo punto, dopo finire, ho dovuto aprire gli occhi per paura di cadere. E questo pensiero del cadere mi ha perseguitato per il resto della meditazione ed era un eterno lottare per non esplodere a ridere. Di cadere di faccia. Quindi ecco, questo è un contrastamento, però allo stesso tempo ho paura di cadere. Io aspettavo che uno rimanesse con questa cosa, perché di solito in un gruppo uno sempre c'è. Questa idea dell'equilibrio, disequilibrio, no? Nasce a vari gradi dal fatto che noi quando siamo in piedi pensiamo di essere immobili e portare l'attenzione su questo fatto che invece ci muoviamo costantemente e questa oscillazione, questo oscillare avanti e indietro è una novità, a volte prende sopravvento, come nel tuo caso, non so se mai caduto, perché apri gli occhi, vedi che vedi avanti, insomma abbiamo detto che quindi nel nostro caso la presenza è ancora più presente perché la mente non vaga, è lì sul corpo in grande attenzione, perché c'è questo corpo che non è fermo, quindi è difficile che vaghi. Io le sto adottando tutte per cercare di mantenere la mente a contatto con il corpo. Tutti gli escamotaggi possibili in questi 2 mesi li proverò. Quindi questa volta è stata un po' casata. Sì. Beh, per perché hai detto tu che siamo sempre in movimento, ma io non mi ero accorta. Ho preso consapevolezza quando l'hai detto e ho controllato il mio corpo e ho confermato quello che stavi dicendo. E lì mi sono stupita, veramente molto stupita. Perché anche quello noi viviamo di illusione, no? Il fatto di dire sono fermo. Esatto. Ma fermo è una cosa. Esatto. Fermi non si è mai, perché c'è il respiro che va. E se avete le ginocchia lievemente piegate, sentite proprio che c'è questa costante compensazione. Quindi, come si dice, infatti, nulla è mai fermo. No? Poi per il resto la mente purtroppo viene richiamata spesso all'ordine, perché c'è la lista della spesa, c'è quello che devo fare dopo, quello che ho fatto prima. Sendo, sì, magari sempre meno, però quella punta è abbastanza. Io eviterei il purtroppo, se fossi sincero. Perché è vero che noi abbiamo sempre gli obiettivi, no? Sempre raggiungere gli obiettivi, ma piuttosto io starei sul questo è ciò che ho sentito. Sì, sì. Questo è il mio stato di oggi. Ma è sempre così, la mente continua, sì, però come hai detto tu, un pochino meno. Si aprono sempre più degli spazi, bene, non mi sbilancio più di tanto, purtroppo è la mente giudicata, perché non va male, siamo dei pezzi di legno, è giusto che sorga in noi questa misura, certo. Però che non sia vincolante, ecco, la sento, la lascio andare. Sì. Quello che abbiamo detto tante volte è di cominciare a spogliarci tutte queste infrastrutture soprattutto. Perché se vogliamo raggiungere questo benessere, che è questa presenza in fondo, piano piano sappiamo e sentiamo che qualsiasi sia stata la nostra pratica di questa mezz'oretta, è una buona pratica, perché ci ha svelato ciò che siamo, al di là di ciò che pensiamo, perché ciò che pensiamo di noi è una forma di noi, ma non è l'essenza. Se invece lasciamo la forma, che è il nostro punto di vista su di noi, che è sempre un giudizio, il bene e il male è sempre un giudizio, smettiamo quella e viviamo l'esperienza. Vivendo nell'esperienza non può andare male la vita, può solo dire essere un'esperienza da cui partire. Grazie. Per me invece è stato un bel viaggio, ma proprio bello, particolare. Sono riuscita a entrare abbastanza meglio di quello che riesco a casa, per dire la verità, probabilmente anche l'unione porta a restare sul mio respiro. Mi sono resa conto che non sentivo più il freddo, lo percepivo invece prima, perché c'è un po' di arietta che entra. E ho cominciato a capire che c'ero. Il respiro si è fatto sempre più leggero, sempre più impercettibile, e ho cominciato a sentire il battito del cuore, ma con il ritmo giusto, con il mio respiro, non dava fastidio. Però ad un certo punto, non so se c'è stato qualcosa, mi sono vista fuori di me, cioè fuori che mi guardavo mentre meditavo. Questa cosa mi ha dato tantissimo fastidio, perché mi sono sentita staccare. E allora con calma ho cercato di riportarmi nel mio respiro, perché ho detto adesso la mente veramente sta viaggiando, sì. Quindi ritorniamo sul respiro. Io uso molto la tecnica del bacino di pace e mi aiuta molto. E sono ritornata lì, mi sono ripreso la mia calma e non avrei più voluto finire. Ti faccio una domanda tecnica, che vuoi rispondere se no non è necessario. Quando ti sei staccata un attimo e ti vedevi vestito così? No, ci ho pensato. Allora era un piano che non dico. Ci ho pensato, nel senso perché mi vedevo di fianco. Sì. E ci ho pensato, ma mi sono vista i vestiti, mi sono vista nella posizione, nel corpo, esatto, però non nei vestiti. Ci potrebbe essere un disassamento dei corpi, non muore nessuno, ma nel senso che ci potrebbe essere una c'è un lieve disassamento, quindi magari ci vediamo proprio e poi torniamo. Questo è uno stadio magari immaginativo, cioè una specie di immaginazione, ti stavi immaginando che non va male, va bene, ottima cosa. A volte si usano i piani dell'immaginazione proprio per creare ancora una maggiore profondità. Nel tuo caso però è una specie di fastidio. Sì. Quindi l'ideale è la riprendere un po' come se ti distraessi da quello stato di mezzo. Sì, fuori da dov'ero. Scusa, devo aggiungere che quando ci siamo alzati i piedi, io sentivo le braccia una tonnellata, non ci sono tirate su. Forse da rilassamento, sì, penso, sì. Ma pesa, ho fatto una fatica a alzare. Meno male. E invece io credo che in qualsiasi meditazione, qualsiasi tentativo, c'è un momento, secondo me, intorno ai 7-8 minuti, perché non saranno l'orologio, in cui, come nella vita, ma no, basta, quanto manca? Sempre, ogni volta, c'è un certo minuto in cui io, certo, quanto mancherà? Sempre. E poi mi è successo prima di a un certo punto di vedere il buio, tipo un tubo. Quando le persone illuminate vedono la luce, io stavo entrando nel buio. Ma no, spostiamoci da un'altra parte perché io ho paura del buio da sempre. Mi riporto io nel buio. Ma non so, è la mente che... Chiaro, è sempre la mente che costruisce il mondo e distrugge il mondo. Lo sappiamo che insomma, è fatta così la questione. Anche quando sorge questo pensiero, quando è che finisce sta roba? È un'altra fonte di osservazione, anzi, più che mai. Quello che abbiamo detto è, a mano che sorgono i fenomeni mentali, siccome abbiamo detto che sono formulazioni della mente, ma noi siamo altro dalla mente, tenendo ferma questa base, che la mente è uno strumento che si palesa attraverso il cervello, nel momento in cui formuliamo un pensiero, questo pensiero va osservato, diventa il mio oggetto di meditazione, fin tanto che sussiste, quindi ne guarderò cosa? O il contenuto, se sono in grado, ma è presto per ne guardare il contenuto, ne guarderò il riflesso sul corpo, perché viene più comodo, soprattutto per un neofito. I contenuti mentali sono difficili da osservare per persone che meditano da poco tempo. Quindi ne riguardo il riflesso sul corpo, tipo il fastidio del fatto che non è ancora finito il tempo, si potrebbe palesare con, non so, un cerchio alla testa, oppure le gambe che si rigidiscono. Scappare da qualcosa mi irrigidisce un po' le gambe, o i glutei si contraggono un minimo. Ecco, questa osservazione del corpo mi fa stare vicino a questo pensiero, ma nel contempo mi disidentifica. Cioè, lo osservo, ma nel momento in cui osservo qualcosa, io so che non sono quella cosa. Seguite qua? Nel momento in cui riesco ad osservarla, non sono quella cosa. Quindi se riesco ad osservarla, le tolgo quell'energia che altrimenti mi farebbe dire che sono quella. Perché non vado via? Perché tutti gli altri sono seduti, poi mi guardano male, eccetera. Chi non ha questo filtro, cioè che sono filtri morali, sono filtri dati dalle leggi che ci governano, sono i bambini, per loro manifestare sempre e comunque ciò che si ha, va bene, e le persone che hanno qualche problema mentale. Non è sbagliato, le regole non sono sbagliate di per sé, tipo sto qui perché tutti stanno qui, oppure mille motivi, ho speso un sacco di soldi, voglio stare qui, eccetera. Non è per quello. Il trucco è, riesco ad osservare ciò che provocano questi pensieri nel mio corpo, riesco a fare questo. Se riesco a farlo vuol dire che sto facendo un passo anche minuscolo verso quella famosa consapevolezza o presenza. Smetto di proiettare. Ci vuole pazienza. Però mi sembrava che questa volta sì, il tempo fosse dimezzato dalle altre volte. Come sempre, quando si sta bene, il tempo si accorcia. Un un'ora dal dentista non è uguale a un'ora con il PC. No. Cristian Burdine parla del tempo psicologico e del tempo cronologico. Sono due cose molto diverse. Il tempo cronologico è quello della mente ed è il tempo che viene scandito dal prologio. Il tempo psicologico invece è quello che altalena a seconda di come noi ci sentiamo in quella situazione. Avete vissuto mille volte situazioni super piacevoli e alla fine hai detto, madonna, sono già passate X ore, o situazioni terrificanti, e ogni volta che guardavate il telefono, l'orologio era passato un minuto e mezzo. Ma il tempo scorre sempre più o meno nello stesso modo. Il tempo psicologico è completamente diverso. È variato, però dire il tempo scorre. Sì, no. Non entriamo nella fisica, non c'è più. Ecco, c'è un altro, il tempo, ad esempio, prima, i greci ne parlavano in tre modi diversi, c'era cronos, che è il tempo cronologico, e kairos, che è il tempo invece dell'opportunità. Cronos e kairos. Kairos è il tempo dell'opportunità, cioè del cogliere l'attimo, dell'essere presente, dell'entrare in contatto con la realtà e quindi con l'esperienza. La meditazione è il kairos, se vissuta in maniera giusta, ma anche le opportunità della vita, di cogliere le situazioni, non solo per le piacevoli, ma dal punto di vista esperienziale, no? Lo smettere di proiettare la mente, vorrei essere da un'altra parte, essere un'altra persona, fare un'altra vita, eccetera. C'era anche un terzo tipo di tempo che era Aion. Allora, la questione delle emozioni. La questione delle emozioni, che è molto importante, secondo me. Posso portarla? Sì, porto là. Sì, giustamente. Grazie invece per il tuo servizio. Invece io sono molto d'accordo con il fatto che meditare insieme in gruppo è un plus, non da poco. Guardate, per questo che chiedo sempre alle persone che si iscrivono di stare anche nel gruppo, visto che c'è un appuntamento a settimana, e di fare l'impossibile per vivere quest'ora e mezza insieme, perché qui c'è proprio la benzina. Io lo faccio volentieri, un po' perché è una mia passione, ma io colgo proprio la differenza, nonostante siano tanti anni che medito, un bel po' di anni che medito, colgo proprio la differenza del quando riesco un pochino anche a immergermi in meditazione, che non devo guidare, come in questo momento, che è una pratica silenziosa, sento proprio che c'è un'energia completamente diversa. Va bene, allora il documento che vi ho messo sul gruppo, che vi ho fatto mettere sul gruppo, che ha messo Alessandro, è un documento semplicissimo, si tratta di una letta, se avete amici, figli, fate anche dei giochi, no? Partite dall'emozione base e chiedete, fatelo con i figli intanto, perché c'è una ignoranza nel senso purtroppo è passata anche come un'offesa, ma non c'è nessuna offesa. È proprio la non conoscenza di quelli che sono i moti emotivi che ci abitano. E non riuscire a riconoscere i propri moti emotivi è un problema grosso, perché sfociano sempre in azioni. Quindi non essere in grado di distinguere una rabbia da una collera, da una semplice alterazione, da un alzare la voce, eccetera, diventa piano piano un problema e genera una serie di blocchi energetici che possono anche trasformarsi in piccole problematiche psicologiche. Quindi lì vi ho messo, non è chiaramente completa, ma vi ho messo tante sfumature di una stessa radice emotiva. È molto interessante vedere, leggetelo, capire qual è la vostra, se le conoscete, insomma, tutte queste sfumature. Io ad esempio a scuola, quando facevo meditare i ragazzi, chiedevo, no, la differenza tra tristezza, mestizia, malinconia, melanconia, cioè ci sono sfumature lievemente diverse, ma che hanno la loro connotazione. Quindi sapere ciò che sentiamo è il primo passo, è importantissimo, guardate. Spero lo cogliate, perché è veramente una cosa sulla quale cerco sempre di sensibilizzare le persone con cui ho a che fare. Non è molto attinente, se non perifericamente, alla meditazione, ma ha a che fare, perché nella meditazione sorgono delle emozioni e devo saperle riconoscere. E poi ci sono, diciamo così, le macro aree, no? Sulle quali a volte siamo un po' ignoranti anche su quelle, tipo le percezioni non sono sensazioni, le sensazioni non sono emozioni, le emozioni non sono pensieri, sono aree tra di loro intrecciate, profondamente intrecciate, ma dall'una sorge l'altra, o dall'una, dal pensiero, sorge l'altra. Vi faccio degli esempi, ad esempio una percezione, che quindi è attinente ai sensi, fa sorgere una sensazione, giusto? Fermatemi se non... La sensazione porta con sé un pensiero-emozione, o un emozione-pensiero, giusto? Quindi è una specie di... Guardate, qui non è il caso, naturalmente, ma faccio anche dei percorsi molto avanzati su questa pratica, su queste cose, che sono abbastanza teoriche, ma sono state... come si può dire, nomenclate in maniera pazzesca da induisti e buddisti, queste cose qua, pazzesca. Mi piaceva sempre agli orientali come a delle persone un po' svaporate, così, che non so, guardano l'infinito, e invece sono degli accaniti cesellatori della mente, cioè una roba fuori di ogni grazia di Dio, vi assicuro. Sono testi interi che si spendono su micro situazioni sensibili da un passaggio all'altro. Ad esempio, nel buddismo per noi si è o consapevoli o inconsapevoli, giusto? Se sono distratto, sono distratto, sono nella mente che vaga, se no sono presente, giusto? Ecco, i buddisti distinguono più di 50 tipi di consapevolezza diversa. Perché? Che loro 2500 anni studiano questa roba qua. È come chiedere a un lappone la neve. Non c'è la neve, sono 20 tipi di neve per il lappone, ok? Magari i vecchi di una volta che venivano in montagna le vedevano 3, 4, 5 tipi di neve. Per noi c'è la neve o non la neve, okay? È la stessa cosa. Quindi ci sono tutta una serie di passaggi. Chiaramente noi non siamo degli studiosi, io sì, perché mi occupo di quelle robe là, ma non importa. Ma in questa situazione, sapere che le percezioni portano con sé il sorgere delle sensazioni, che fa scaturire delle emozioni che portano con sé dei pensieri. E quindi magari, non so, la percezione del freddo o del caldo potrebbe portare con sé una sensazione di brivido, una sensazione che aggancia un'emozione negativa o un ricordo, giusto? Lo stesso vale per il contrario, quindi un pensiero, l'abbiamo fatto l'altra volta questo discorso, un pensiero che si ammanta di un'emozione, quindi semplicemente la mente che formula un pensiero, vi viene in mente una persona, un momento della giornata, vi agganciate un ricordo, quel ricordo porta con sé un'emozione, abbiamo detto che il pensiero si ammanta o si colora di un'emozione, questo fa sorgere una sensazione, quindi la sento nel corpo, sì o no? Sì. Potrei, non so, vivere un momento, mi si chiude la gola, mi si chiude lo stomaco, mi si rigidiscono le spalle, oppure mi vergogno, no? Tipo, mi viene in mente un ricordo che mi fa vergognare, quindi arrossisco, mi chiudo, e cose di questo tipo. O un ricordo di paura, e così via. Quindi questa catena è importante riconoscerla, per quale motivo? Perché nel momento meditativo io sto cercando di stare in quella condizione che è precedente a pensieri, emozioni, sensazioni, percezioni. Precedente. Cioè dovrei riuscire nel tempo ad osservare questo processo come non mio, cioè come mio ma non identificato in esso. E quindi, guarda, questa è una roba estremamente interessante. Si parla dei quattro stati di consapevolezza o quattro principi della consapevolezza, che vedremo forse già nelle prossime volte, se non è la prossima sarà l'altra, perché allora ve le scandirò più meglio. Una cosa invece su cui oggi vorrei focalizzarmi è proprio questa cosa delle emozioni, che già un po' ho descritto l'altra volta. Allora, se nella presenza, questo è un ragionamento che voi farete poi a livello cognitivo nella vostra cameretta, se l'assoluta presenza a cui dovrebbe portarmi la pratica meditativa è oltre o sotto, non è una roba collocabile, è uno stato d'essere al di là della mente che proietta o si radica, quindi della mente che va al futuro o si radica nel passato, se, per me lo è, ma voi magari ti state ancora esplorando, no? Se questo lo è, significa che sto vivendo una condizione che è al di là della mia mente, è oltre la mia mente, non sono più immerso nel tempo cronologico, non sono più immerso nello scorrere del tempo. Perché nel momento in cui sorge un'emozione, questa emozione quasi sempre, quasi sistematicamente, soprattutto per i neofiti, è un'emozione che aggancia la mente o è agganciata dalla mente proiettiva o che si radica. Vi ripeto questo concetto? O è abbastanza chiaro? Chiaro. Per chi non è chiaro? Perfetto. Non è semplice. Anche spiegarlo. Allora, facciamo anche degli esempi. Nel momento in cui io sono rapito dalla mia mente, no, sto meditando, o anche durante la giornata, mi accorgo che per tutto un periodo, non so, 10 minuti, mezz'ora, tre quarti d'ora, la mia mente ha cominciato a formulare pensieri. E questi pensieri hanno portato con sé anche vari stati emotivi, magari leggeri, non occorre mica che ogni volta arrivi la rabbia, la depressione, l'ansia, no? Magari anche stati leggeri. Ecco, in questo stato della mente, in cui la mente continua a proiettarsi, continua a formulare pensieri, eccetera, io non sono nella presenza, sono semplicemente totalmente identificato, rapito, sequestrato da questa mente che continua a formulare pensieri. Fino a qua ci siamo? E questa mente naturalmente è una mente che fa sorgere queste emozioni, cioè le vivo, le sento. Quante volte durante la giornata o durante la vostra vita di veglia vi scoprite magari a parlottare, no? Magari anche sottovoce oppure mentalmente a parlottare. Vi è capitato mai? Sì. Questo parlottio, che è un giustificarsi, un cercare di capire, un cercare di, ma è sempre, soprattutto se è riferito ad una relazione, ad un'altra persona o ad altre persone, spesso lo viviamo anche con certe emozioni dentro, sì o no? Sì. Magari emozioni di rivalsa, magari col desiderio di sanare delle cose, di discutere, di eccetera eccetera eccetera, giusto? Questa mente è una mente che emotivamente mi impegna molto, ma in quel momento non sono in uno stato di presenza. Quindi posso dire che questi due stati, la presenza ed essere completamente identificato nella mente emotiva, chiamiamola così, sono due stati completamente differenti. O sto nell'uno o sto nell'altro, o sto nell'uno o sto nell'altro. Se sto nella presenza, non è che svanisce questa mente emotiva, c'è, ma semplicemente non può sussistere se io sto nella presenza, la sento, la vedo, vedo i pensieri, vedo le emozioni che li ammantano, ma non sono in quello stato. Vi è mai capitato finora? Difficile, ma ogni tanto capita. Ci si quasi sempre. Certo, ma se in queste 3 settimane di meditazione potrebbe esservi capitato qualche volta, magari anche per un minuto, 30 secondi, che avete visto in distanza, in lontananza, o avete sentito questi pensieri, queste emozioni come più tenui, più lontane. Questo vi è capitato? Sì. Perché eravate nella presenza. E quindi nella presenza, semplicemente, questi pensieri che sembrano distanti, come, no? Come se fossero, se passassero sulla strada o lontano da noi, non hanno la forza che hanno normalmente di prenderci, perché stiamo costruendo, irrobustendo quel famoso osservatore. Ma ciò che a me interessa è quando sussiste la mente emotiva, se noi ci ribaltiamo, ci facciamo completamente identificare in essa, non siamo nella presenza. Ma se riusciamo a stare nella presenza, lo stato è solo quello. Ho capito, ma il problema è che quando, cioè, faccio un esempio, oggi ho avuto una discussione con mia mamma. Certo. E tac, ci sono cascate. Cioè, sono caduta alla sua provocazione. Perfetto. Ma proprio come. E nel momento in cui poi ho analizzato, ho detto: sei un'ocona. Ma no. Allora, ma sì, perché? Perché io ho detto: perché sono caduta nel suo tranello. Certo. Mi sono lasciata agganciare. Perfetto. Però te ne sei accorta. Sì. E ora che hai un piccolo bagaglio di conoscenza, oltre ad accorgerti, puoi anche dire: vedi come agisce la mente, e c'è a perdere la mamma, l'amico o chi per esso riesce a farti cadere, ma scoperto il meccanismo, piano piano nel tempo capirai e sentirai che quando ricapita quella cosa, se continuate nella meditazione, prevale l'osservatore. Sì, perché io mi sono detta: Daniela, non ti sei data sufficiente tempo, certo, per prendere le distanze. Grande esperienza. Domani ringrazio la mamma. Ma dobbiamo proprio ancora. No, le cose non devono capitare perché le vogliamo noi, ma devono coglierci di sorpresa. È proprio lì, è quello che continuo a dire, che questa non è la meditazione, questo è un training. Ma quando accadono fuori queste cose, quando io le vivo e, come hai detto giustamente tu, ci ricado, è un bene. Perché poi rifletto e dico: non mi sono dato abbastanza tempo. Perché mi devo dare un po' più di tempo? Perché il mio osservatore è ancora debole. Esatto. E allora, però allo stesso tempo... Posso anche chiedere, aspetta un secondo, mi dai un attimo? È già lì? Si apre uno scenario completamente diverso, capite? Completamente diverso. E quindi ti prendi quell'istante di tempo e magari poi continui nel dialogo, nella discussione, può anche diventare molto animata, ma non è più come prima. Sei presente. Sei presente e quindi semplicemente lasci che la tua personalità, la tua parte della personalità, che deve manifestare ciò che pensi, non è che diventiamo mollaccioni che ci passano sopra tutti, non c'entra nulla. No, non è questo. È un atteggiamento interiore, capite la differenza? Importantissima sta roba qua, importantissima. È un atteggiamento interiore, non è il come mi paleso, ma se alla fine della discussione io ho capito che sono stata totalmente rapita dalla discussione, non ho ragionato, ho solo che risposto in maniera meccanica e reattiva, lì è chiaro che sono ritornato nelle mie vecchie proiezioni, nel mio vecchio modo di essere. un modo che non porta da nessuna parte, perché lo so, lo conosco, l'ho provato per tutta la vita, e invece però ti sei accorta che c'è tanta roba. Sì, però cioè non riesco poi ad adottare la via d'uscita, quella che mi fa uscire, diciamo, tra virgolette, indenne emotivamente. Pretenderesti un po' troppo. Attualmente, così come siamo messi, ci vorrà ancora tanto tempo. Adesso, se già ci accorgiamo, anche subito dopo, come hai fatto tu, hai detto, beh, perché non ti sei data abbastanza tempo? Questo è già un grande risultato, a mio modo di vedere. E continuiamo semplicemente a vivere queste esperienze, cercando ogni volta di sentirle sempre più da vicino. Emotivamente indenne è una meta molto, molto di là da venire, ok? Perché emotivamente indenne potremmo passarci delle ore qua, perché non ha un significato. Cosa vuol dire che diventa una tavola di legno su cui qualsiasi marea si può infrangere, non sento nulla? Avrei abbandonato la meditazione dopo un mese. Io voglio sentire tutte le emozioni, tutte, fino in fondo. Voglio anzi che si amplino in me. E lo impareremo, chi di voi continuerà, quando studieremo il brano di Ana. Io le sensazioni le voglio vivere, le voglio sentire. Non mi devono rapire. Non devono sconvolgere il mio essere. Perché quando sei rapito dalle emozioni non sei più tu. Io invece voglio essere io che vive le mie emozioni. Che vive le emozioni fino in fondo. Voglio piangere davanti a un film, o davanti a un quadro, o davanti a un tramonto. Voglio incazzarmi perché c'è qualcosa che non va nel mio governo, qualcosa che non va nel governo del mio paese. Voglio, capite? Vorrei. Ma questo non è più il mio modo di vivere prima le emozioni, cioè che mi prendono e portano via con sé dove vogliono loro, e divento semplicemente un burattino nelle sue mani. No, questo no, però lo voglio sentire, devo darmi questa opportunità. E le senti molto di più se sei nella presenza, perché se no non senti l'emozione, sei l'emozione. Ma se sei l'emozione non la senti, è l'emozione che vive per te. È chiaro questo? È fondamentale, è fondamentale, fondamentale. Ecco, su questo ad esempio un maestro, si chiamava maestro moderno, che ne ha parlato in maniera molto profonda, secondo me è molto, molto comprensibile, più che profondo, molto comprensibile, è Eckhart Tolle, nel Nuovo Mondo ad esempio, nel Potere di Adesso, ne parla in maniera molto precisa, molto bravo lui, molto bravo a comunicare. Ok? Bene. Domande? Perplessità? Torneremo su queste tematiche, sono tematiche molto importanti. Intanto voi riflettete. E poi magari di volta in volta, se vi segnate delle domande o delle cose, venite con dei quesiti, che io sui quesiti vostri rendo meglio che sulle chiacchiere che mi vengono in mente a me. Sono più performante sulle domande. Ok? Va bene. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie. Il libricino l'avete letto? Il libricino quello privato? Benissimo, quello è un po' una